La chiesa della missione scozzese era vicina alla fattoria, 18 chilometri a nord-ovest e 150 metri più in alto. Quella francese, cattolica romana, si trovava invece a 16 chilometri a oriente e a 150 metri più in basso, nella pianura. Non provavo simpatia per nessuna delle due, ma ero in buoni rapporti con entrambe e mi dispiaceva che fossero sempre in guerra fra di loro. Coi padri francesi, però, avevo una vera amicizia. Tutte le domeniche mattina andavo con Farah a sentire la messa alla missione, un po' per poter parlare francese, un po' perché era una bella passeggiata a cavallo. Per un lungo tratto la strada passava attraverso il vecchio bosco di acace del distretto forestale. Il fresco, virile profumo di quegli alberi al mattino ricordava il profumo dei pini e metteva allegria. Stranamente, dovunque si trovi, la Chiesa Cattolica Romana porta con sé la propria atmosfera. I padri avevano progettato e costruito la chiesa loro stessi, con l'aiuto della congregazione indigena, e ne andavano giustamente superbi. Era un bel edificio, grande, grigio, con scale e terrazze e un campanile. Circondato da un ampio cortile, si ergeva in mezzo alla piantagione di caffè più antica della colonia, amministrata dai padri con grande abilità. Nel cortile, da un lato c'era il refettorio ad arcate e dall'altra il convento. Giù in basso, accanto al fiume, avevano la scuola e il mulino. Per entrare nel viale che saliva alla chiesa bisognava passare un ponte ad arco di pietra grigia. Venendo giù per la discesa, lo si vedeva spiccare nitido e imponente nel paesaggio. Pareva di trovarsi nel sud della Svizzera o nell'Italia del Nord. Quando la messa era finita, i padri, sempre cordiali, mi aspettavano sulla porta della chiesa per invitarmi a bere un petit verre de vin, nell'ampio e fresco refettorio dall'altra parte del cortile. Era sorprendente vederli al corrente di tutto quello che accadeva anche negli angoli più remoti della colonia. Sotto l'apparenza di una conversazione piacevole e senza malizia, riuscivano a strappare al loro interlocutore qualsiasi notizia. Come un piccolo sciame di api scure impellicciate. Avevano tutti una lunga barba folta, attaccate a un fiore per suggerne fino all'ultima goccia di miele. Ma pur interessandosi tanto alla vita della colonia, erano sempre a loro modo dei francesi in esilio, che obbedivano con pazienza e gaiezza a un ordine superiore di natura misteriosa. Senza quell'ignota autorità, si capiva che non sarebbero stati là. Come non ci sarebbe stata la chiesa di pietra grigia col campanile alto, né le arcate, né la scuola, né tutto il resto che faceva parte della loro piantagione ben tenuta e della sede della missione. Appena veniva qualcuno a dar loro il cambio, infatti, piantavano in asso baracche e burattini e prendevano il mezzo più diretto per Parigi. Mentre mi trattenevo in chiesa o al refettorio, Farah aspettava fuori con i cavalli. Tornando alla fattoria, notava che ero un po' euforica. Lui, maomettano, osservante, non toccava alcol, ma accettava la messa e il vino come due riti complementari della mia religione. A volte i padri francesi venivano a pranzo alla fattoria in motocicletta, mi recitavano le favole di La Fontaine e mi davano buoni consigli per la piantagione. La missione scozzese non la conoscevo altrettanto bene. C'era uno splendido panorama di lassù, si dominava la terra dei Kikuyu, ma la chiesa in sé pareva avesse la vista corta, non riusciva mai a vedere le cose nella loro realtà. Cercavano, per esempio, di convincere gli indigeni a portare abiti europei, abiti che secondo me non erano proprio fatti per loro. Avevano però un buonissimo ospedale, diretto a quei tempi da un bravissimo medico di idee filantropiche, il dottor Arthur. Salvarono molti dei miei indigeni. Camante vi rimase 3 mesi. In quel periodo lo vidi solo una volta mentre passavo davanti alla missione per recarmi alla stazione Kikuyu. La strada in quel punto costeggia per un breve tratto i giardini dell'ospedale. Là scorsi Camante che se ne stava in disparte, lontano dai gruppetti degli altri convalescenti. A quell'epoca andava migliorando e poteva correre. Quando mi vide, si precipitò alla staccionata e mi seguì, trottando per non restare indietro. Pareva un puledrino chiuso in un recinto che vede passare al galoppo un cavallo adulto. Fissava il mio pony senza dir nulla. All'angolo fu costretto a fermarsi. Voltandomi poco dopo, lo vidi fermo, immobile, con la testa alzata e lo sguardo fisso su di me, proprio come un puledro quando scorge il padrone allontanarsi. Lo salutai, agitando due o tre volte il braccio, e prima non reagì affatto, poi improvvisamente il braccio gli scattò su come lo stantuffo di una pompa, ma una volta sola. Una mattina, era la domenica di Pasqua, Camante mi si presentò a casa inaspettatamente con una lettera dell'ospedale. La lettera diceva che stava molto meglio e che lo credevano definitivamente guarito. Egli non ne ignorava probabilmente il contenuto, perché mentre leggevo seguiva con grande serietà ogni mia espressione, ma non volle parlarne. Aveva cose più importanti in testa. Lui, di solito tanto compassato e controllato, quel giorno non riusciva a celare il suo trionfo, era troppo felice. Tutti gli indigeni hanno il gusto degli effetti drammatici. Camante, per farmi una sorpresa, si era fasciato accuratamente le gambe fino al ginocchio con delle vecchie bende. L'aspetto importante del momento consisteva per lui, era chiaro, non tanto nella fortuna occorsa gli, quanto altruisticamente nel piacere che stava per darmi. Probabilmente ricordava tutte le volte in cui mi aveva vista sconvolta dal costante insuccesso delle mie cure e sapeva che il risultato di quelle dell'ospedale era quasi miracoloso. Levava le fasce pian piano. Dal ginocchio al calcagno comparivano le gambe tutte lisce, coi soli segni grigiastri delle cicatrici. Assaporata fino in fondo la mia meraviglia e la mia gioia, senza perdere la sua nobile calma e la sua dignità, con un altro colpo di scena mi annunciò solennemente che era diventato cristiano. «Sono come te», dichiarò. E visto che proprio quel giorno era risorto Cristo, aggiunse, forse potevo dargli una rupia. Poi andò a trovare i suoi. La madre, vedova, abitava molto lontano da casa mia. Da quanto lei stessa in seguito mi raccontò, seppi che il bambino quel giorno, contrariamente alla sua abitudine, si abbandonò alle confessioni, raccontandole tutto ciò che aveva provato all'ospedale, fra quella strana gente che lo trattava in quello strano modo. Finita la visita alla madre, tornò a casa mia. Pareva ovvio che ormai era quello il suo posto. Da allora rimase al mio servizio, finché non lasciai l'Africa, cioè per circa 12 anni. La prima volta che l'avevo incontrato, gli si potevano dare sì e no 6 anni, ma aveva un fratellino che ne dimostrava 8 e che, a detta di tutti e due, era il minore. Camante doveva quindi avere almeno 9 anni. La lunga malattia aveva evidentemente arrestato il suo sviluppo. Anche in seguito, benché crescesse, dava l'impressione di un nano, di una creatura colpita da una deformità imprecisabile, benché fosse difficile localizzare il punto al quale quell'aspetto era dovuto. Col tempo, il suo viso angoloso si arrotondò e poté camminare e muoversi senza difficoltà. Io, da parte mia, non lo trovavo affatto brutto. Ma forse lo guardavo con occhi con cui si guarda una cosa creata con le nostre stesse mani. Con quelle sue gambe magre come stechi, rimase sempre una figura fantastica, mezzo buffa e mezzo diabolica. Con qualche ritocco avrebbe potuto essere il nano che guarda dall'alto della cattedrale di Notre Dame. C'era in lui un non so che di animato e di brillante, dava a tutta la casa un tono pittoresco. In un quadro avrebbe rappresentato un'insolita, vivace macchia di colore. Non aveva mai la testa completamente a posto, o almeno era sempre quello che noi bianchi chiameremmo uno strambo. Osservando il suo carattere chiuso e meditativo, si sarebbe detto che i lunghi anni di sofferenza l'avessero abituato a riflettere sulle cose e a trarre da sé le sue conclusioni da tutto ciò che vedeva. Per tutta la vita fu, a suo modo, un isolato. Anche quando si comportava come gli altri, era e rimaneva un eccentrico. Avevamo una scuola serale alla fattoria e facevo venire appositamente insegnanti indigeni sia dalla missione cattolica che da quella anglicana e dalla scozzese, poiché l'istruzione impartita agli indigeni è rigorosamente fondata su canoni religiosi, i soli libri tradotti in Swahili, mi risulta, sono la Bibbia e i libri degli inni. Io, da parte mia, avrei voluto tradurre le favole di Esopo, ma finché rimasi in Africa non ebbi mai tempo. Anche così, tuttavia, la scuola era uno dei luoghi che amavo di più. Alla fattoria, il centro della nostra vita spirituale, passavo molte ore piacevoli, il pomeriggio nella lunga vecchia capanna di lamiera dove si tenevano le lezioni. Veniva anche Camante, ma invece di sedersi sui banchi insieme agli altri, se ne stava in disparte, quasi si rifiutasse ostinatamente di imparare, ma volesse solo divertirsi alle spalle degli ingenui che si lasciavano trascinare là dentro per studiare. E invece, tante volte, lo trovavo in cucina tutto solo, mentre tentava di riscrivere a memoria, faticosamente, con grande goffaggine, le lettere e i numeri visti sulla lavagna. Anche volendo, credo, non avrebbe potuto stare con gli altri. Qualcosa dentro di lui si era aggrovigliato o incagliato sin dall'infanzia. Adesso era normale per lui essere al di fuori della normalità. Conscio probabilmente del suo isolamento, aveva l'arrogante grandezza d'animo del vero nano, che accorgendosi di essere diverso dal mondo intero, si comporta come se deforme fosse invece il mondo. Nelle questioni di soldi era bravissimo, sapeva risparmiare e quando comprava o rivendeva le capre agli altri kikuyu faceva ottimi affari. Si era sposato presto e il matrimonio costava parecchio fra la sua gente. Ciò non gli impediva tuttavia di andare esponendo sani ed originali principi filosofici sulla vanità del denaro. Il suo rapporto con l'esistenza era curioso, la dominava, ma non la teneva in gran conto. Non ammirava mai nulla né nessuno. Forse capiva e rispettava la naturale saggezza degli animali, ma di un solo essere umano, finché restò con me, lo sentii lodare l'intelligenza. Una giovane soma l'ha venuta a vivere alla fattoria qualche anno dopo. Sogghignava ironicamente in numerose circostanze, soprattutto quando trovava negli altri molta presunzione o retorica. Con il loro gusto spiccato della malignità, tutti gli indigeni si divertono moltissimo quando qualcosa va male. Un tratto sgradevole e ripugnante per gli europei. In Camante toccava una rara perfezione e gli giungeva quasi ad un curioso umorismo su se stesso, divertendosi delle proprie delusioni e delle proprie disgrazie non meno che delle altrui. In genere quel tipo di umorismo si trova solo nelle vecchie indigene che ne hanno passate di tutti i colori nella vita e ha mescolato il proprio sangue col sangue della fatalità. Ogni volta che essa ricompare, con la sua ironia, l'accolgono cordialmente come una sorella. Di solito, la domenica mattina, quando era ancora a letto, lasciavo che i miei servi vendessero il tabacco, o tombacco, dicevano loro, alle vecchie indigene. Così, la domenica, avevo una strana raccolta di visitatori intorno alla casa, una specie di stuolo di vecchi gallinacci da cortile, arruffati, senza penne e tutt'ossa. Il loro chiacchierio sommesso, è raro che gli indigeni parlino ad alta voce, arrivava fin dentro la mia stanza. Un giorno il fiume vivace ma delicato delle loro conversazioni si gonfiò in piccole onde e cascate, trasformandosi in allegra gazzarra. Chiamai Farah per sapere cos'era successo di tanto buffo da provocare quelle risate. Si era semplicemente scordato di comprare il tabacco, mi confessò a malincuore, e le vecchie quel giorno avevano fatto tanta strada. O, come dicevano, buri per nulla. Le vecchie continuarono per parecchio tempo a divertirsi dell'incidente. Se ne trovavo una in un viottolo fra i campi di mais, mi si piazzava davanti decisa, puntandomi addosso il dito curvo e ossuto e scoppiando in una gran risata. Il viso scuro si deformava, le rughe si raccoglievano addensandosi come tratte da un filo segreto. Ricordavo quella domenica, diceva, quando lei e le sue sorelle nel fumo si erano fatte tutta quella camminata solo per sapere che non c'era nemmeno un granello di tabacco in tutta la casa. Msabu. I bianchi dicono spesso che i Kikuyu ignorano completamente la gratitudine. Camante certo non era ingrato, non solo, ma mi dimostrava la sua riconoscenza in mille modi. Diverse volte nel periodo che stette con me si diede molta pena per rendermi un servizio non richiesto. Quando gliene chiedevo la ragione, mi rispondeva che se non fosse stato per me sarebbe morto da un pezzo. Aveva anche un altro modo di farmi capire la sua gratitudine. Assumeva nei miei confronti un atteggiamento benevolo, servizievole, o forse sarebbe più giusto dire indulgente. Forse non dimenticava mai che eravamo della stessa religione. In un mondo di matti rappresentavo probabilmente per lui uno dei matti più furiosi. Dal giorno in cui entrò al mio servizio e legò il suo destino al mio, Senti il suo sguardo seguirmi continuamente, vigile e penetrante. Sottoponeva alla sua critica imparziale tutto il mio modus vivendi. Sin da principio, credo, la pena che mi presi per farlo curare gli parve una prova di eccentricità senza speranza, ma mi dimostrò sempre affetto e devozione. Faceva del suo meglio per guidarmi nella mia grande ignoranza. A volte intuivo che si era spremuto chissà quanto il cervello per cercare di risolvere un certo problema e per mettere bene a punto le sue idee in modo da rendermele più facilmente intellegibili. Da principio, in casa, Camante ebbe il compito di accudire i cani. Più tardi imparò a farmi da assistente con i malati. Mi accorsi allora di quanto fossero abili e pronte le sue mani, benché a vederle non si sarebbe detto. Così lo mandai in cucina a far l'aiuto il marmittone del mio vecchio cuoco Esa. Quando Esa fu ucciso, prese il suo posto e rimase il mio chef per tutto il tempo che stette con me. Gli indigeni di solito non sono molto sensibili con gli animali, ma anche in questo, come in tante altre cose, Camante era diverso. Trattava i cani con un intuito speciale. Riusciva quasi a identificarsi con essi e veniva a raccontarmi i loro desideri, i loro bisogni e perfino le loro opinioni sulle cose. Badava a tenerli puliti, senza pulci. Le pulci in Africa sono una vera dannazione. A volte, destati dai loro guaiti, ci alzavamo nel cuore della notte per andare a togliere loro di dosso, una per una, alla luce delle lampade antivento, le siafu, le grosse formiche micidiali che viaggiano isolate e mangiano tutto quello che trovano. All'ospedale Camante doveva aver tenuto gli occhi bene aperti, anche se, come sempre, non c'era nulla che avesse provocato il suo rispetto o l'avesse commosso, perché quando mi faceva da assistente era pronto e pieno di inventiva. Anche dopo che ebbe assunto il suo nuovo ruolo in cucina, veniva spesso a darmi saggi consigli di medicina. Ma come chef era tutt'altra cosa, un vero fuoriclasse. La natura lì aveva fatto un guizzo, saltando a piè pari ogni legge di precedenza fra capacità e talento. Come sempre, nella genialità c'era qualcosa di mistico e inspiegabile. In cucina, Camante aveva tutti gli attributi del genio, compresa la sua condanna. L'impotenza dell'uomo di fronte al suo stesso potere. Se fosse nato in Europa e avesse avuto un maestro intelligente, sarebbe diventato un uomo famoso, un personaggio pittoresco della storia. Anche in Africa si era fatto un nome, il suo atteggiamento verso la culinaria era quello di un grande artista. Io stessa ero appassionata di cucina. Tornando per la prima volta in Europa, avevo preso lezioni dallo chef di un noto ristorante francese. Sarebbe stato divertente poter preparare dei buoni piatti in Africa, pensavo. Vedendo il mio entusiasmo, lo chef, Monsieur Perrochet, mi aveva proposto persino di dirigere il ristorante insieme a lui. Quando scoprii Camante, quella specie di genio familiare che lavorava al mio fianco, mi riprese l'amore per la cucina. Lavorare insieme con lui mi apriva dei vasti orizzonti. Scoprire in un selvaggio l'istinto innato per la nostra arte culinaria mi pareva miracoloso. Giungevo a giudicare la nostra civiltà da un punto di vista completamente diverso. Forse era davvero divina e predestinata. Mi sentivo come l'uomo che riacquistò la fede in Dio perché un frenologo gli indicò la sede dell'eloquenza teologica nel cervello umano. Se si poteva dimostrare l'esistenza dell'eloquenza teologica, si dimostrava anche l'esistenza della teologia e, in ultima analisi, l'esistenza di Dio. In tutte le questioni culinarie, Camante era di una straordinaria abilità manuale. I grandi trucchi e i tour de force della cucina erano giochi da bambini per quelle sue mani nere e curve, che avevano innata la scienza delle omelette, dei vol-au-vent, delle salse, della maionese. Possedeva un dono speciale per rendere le cose più leggere, come nella leggenda il bambino Gesù plasma uccelli dalla creta e li fa volare. Disprezzava tutti gli strumenti complicati, forse non sopportando che agissero con troppa indipendenza. Quando gli comprai una macchinetta per sbattere le uova, la lasciò arrugginire in un angolo, continuando a montare le chiare con una specie di trinciante per le erbacce. Riusciva a farle torreggiare come nubi. Possedeva un occhio di cuoco penetrante e ispirato, capace di scegliere il pollo più grasso dell'intero pollaio e se soppesava gravemente un uovo, sapeva quando era stato fatto, Faceva di tutto per migliorare la mia tavola, cercando di procurarsi con mille sistemi gli ingredienti più raffinati. Tramite un suo amico che lavorava da un medico molto lontano dalla fattoria, mi portò i semi di una lattuga veramente squisita, come io stessa per anni non ero riuscita a trovare. Aveva una memoria eccezionale per le ricette. Non sapeva leggere e non conosceva l'inglese, e i libri di cucina non gli servivano a nulla, ma doveva avere ammassato nella sua goffa testa, con una sua sistematica personale per me incomprensibile, tutto ciò che gli avevamo insegnato. Ogni pietanza, nella sua fantasia, portava il nome di un avvenimento accaduto il primo giorno che l'aveva fatta. Parlava della salsa dell'albero colpito dal fulmine e di quella del cavallo grigio morto, ma non le confondeva mai l'una con l'altra. Una cosa sola non riuscii mai a fargli capire: l'ordine in cui dovevano essere servite le pietanze durante i pasti. Se avevo ospiti, ero costretta a disegnargli una specie di menù figurato. Prima un piatto fondo per le minestre, poi un pesce, poi una pernice o un carciofo. Secondo me non era che non riuscisse a ricordarsene, ma probabilmente in cuor suo pensava che tutto ha un limite e che non vale la pena di perdere tempo per una sciocchezza. È emozionante lavorare con un demone. Teoricamente comandavo io, ma mentre stavamo accanto fra i fornelli avevo la sensazione che non solo la cucina, ma tutto il nostro mondo passasse pian piano nelle mani di Camante. Là dentro capiva a volo che cosa volessi e non sbagliava mai. A volte addirittura preveniva i miei desideri. Rimase sempre un mistero per me, il meccanismo o piuttosto la fonte di tanta bravura. Mi sembrava strano che si potesse raggiungere tanta perfezione in un'arte di cui non si capiva il vero significato e per cui si aveva solo disprezzo. Spesso non aveva la più pallida idea del sapore dei piatti che preparava. Malgrado la sua conversione al cristianesimo e i suoi legami con la civiltà, in fondo al cuore era un autentico Kikuyu, radicato nella tradizione della sua tribù e nella fede che aveva in essa, l'unico modo di vivere degno di un essere umano per lui. Talvolta assaggiava le pietanze che aveva cucinato, ma sempre con la faccia sospettosa di una strega che beva un sorso della sua broda. Lui restava fermo alla pannocchia di mais dei suoi padri. Su quell'argomento diventava persino stupido ed era capace di offrirmi una leccornia Kikuyu, una patata dolce arrostita o un pezzetto di grasso di pecora, come certi cani civilizzati abituati alla compagnia dell'uomo depongono dinanzi all'ospite un osso come un gran regalo. In cuor suo probabilmente considerava pazzesche tutte quelle smanie per la cucina. Tentavo di fargli dire il suo pensiero, ma mentre di tante cose parlava a cuore aperto, per altre non c'era verso di cavargli una sillaba di bocca. Così si lavorava fianco a fianco in cucina e ognuno si teneva le sue convinzioni sull'importanza della culinaria. Lo mandai a fare pratica al club Mutaiga e dai cuochi di quelli fra i miei amici di Nairobi, dove avevo mangiato qualche buon piatto che non conoscevo. Quando ebbe finito il suo tirocinio, la nostra casa, con mia grande gioia, divenne famosa in tutta la colonia per la sua tavola. Volevo un pubblico per la mia arte ed ero felice di invitare a pranzo i miei amici. Ma Camante, pur non dimenticando mai i gusti dei miei ospiti più cari, non si curava delle lodi di nessuno. Per buona Berkeley Call farò il pesce col vino bianco, diceva con aria grave, come si riferisse a un mentecatto. Il vino lo manda lui stesso. Per avere il parere di un'autorità, invitai a pranzo un mio vecchio amico di Nairobi, Charles Balpett, grande viaggiatore nella vecchia generazione, la generazione erede dei Phileas Fogg. Balpett aveva visto mezzo mondo, gustando dappertutto i piatti più squisiti. Pensava solo a godersi il presente, senza curarsi del futuro. I libri sullo sport e sull'alpinismo di 50 anni fa descrivono le sue scalate sulle montagne della Svizzera e del Messico. In un libro sulle scommesse famose, intitolato Light Come, Light Go, è narrato come, per scommessa, passò a nuoto il Tamigi col cilindro e il vestito da sera. Da gran romantico, emulo di Leandro e di Lord Byron, fece anche la traversata dell'Elesponto. Fu una gioia per me averlo a cena alla fattoria. C'è un piacere particolare nell'offrire un buon pranzo cucinato con le proprie mani a qualcuno per cui si ha veramente simpatia. In cambio mi confidò, fra l'altro, le sue idee sulla cucina. Per e su molte altre cose, assicurandomi di non aver mai mangiato meglio in vita sua. Anche il principe di Galles mi fece l'onore di venire a cena da me e di complimentarmi per una salsa Cumberland. Fu l'unica volta che vidi Camante ascoltare con profondo interesse i complimenti che gli traducevo. I re, nella fantasia degli indigeni, sono esseri straordinari, dei quali parlano con gran piacere. Dopo parecchi mesi, ebbe il desiderio di sentirsi ripetere i regali elogi e mi chiese, con un frasario che sembrava tolto da un manuale per lo studio del francese, piacque al figlio del sultano la salsa del maiale? La mangiò tutta? Una volta entrò improvvisamente in camera mia, a notte alta. Reggeva in mano una lampada antivento, come un soldato di ronda. Doveva essere da poco alla fattoria, perché era molto piccolo, ricordo. Accanto al letto, con la sua lampada in mano, pareva un pipistrello nero rimasto chiuso nella mia stanza, con enormi orecchie a sventola, o un piccolo fuoco fatuo africano. Disse solennemente: Msabu, credo sia meglio che ti alzi. Mi sollevai dai cuscini, meravigliata. Se fosse successo qualcosa di grave, pensavo, sarebbe stato Farah a venirmi a svegliare. Ma quando dissi a Camante di andarsene, non si mosse. Msabu, ripeté, credo sia meglio che ti alzi. Credo che Dio stia venendo. A quelle parole mi alzai. Cosa glielo faceva credere? Gli chiesi. Mi condusse con aria grave nella stanza da pranzo che dava verso occidente dalla parte delle colline. Là, attraverso la porta vetri, vidi uno strano fenomeno. Nei prati, sulle colline, l'erba aveva preso fuoco dalla vetta sino alla pianura. Visto dalla casa, l'incendio era una striscia quasi verticale. Pareva effettivamente che una figura gigantesca stesse avanzando verso di noi. Rimasi per un pezzo a guardare, con Camante sempre vigile al mio fianco. Poi cercai di spiegargli di cosa si trattasse. Volevo tranquillizzarlo, pensando si fosse veramente spaventato, ma la spiegazione non lo impressionò e non lo convinse. Per lui la sua missione era finita nel momento in cui mi aveva chiamata. Beh, sì, disse, forse è così. Ma ho pensato che facevi meglio ad alzarti se stava arrivando il Signore.